Con Piera Galeandro della cooperativa sociale di psicoterapia medica per parlare della prima edizione del Coop Art Festival il 1° e 2 giugno presso la sede della cooperativa sociale di psicoterapia medica a Roma. Piera, ben Sì, trovata. ben trovati a voi, ben trovati a te Federico, buongiorno. Cosa si tratta? Intanto è un evento anche per noi unico, per cui è una prima edizione. Il Coop Art Festival è diciamo che nasce da un rapporto tra noi psicoterapeuti della cooperativa sociale di psicoterapia medica e un gruppo di artisti con i quali abbiamo collaborato nel tempo per fare un altro progetto precedentemente riguardante i film. Da questo lavorare insieme, da questo mashup, chiamiamolo così, è nato appunto l'esigenza di intanto festeggiare i 7 anni della cooperativa, che appunto sarà proprio a ridosso del 1° giugno. E poi da lì appunto l'idea di fare qualcosa inerente all'arte. E quindi insomma, parlando con loro, è venuta fuori appunto l'idea di perché non realizzare qualcosa che riguardasse proprio il processo creativo. Per cui lavorando, è venuta fuori proprio questo Coop Art Festival che riguarda 28 artisti che faranno lavorare queste 9 stanze realizzando ognuno di loro lo che è proprio il processo creativo artistico. La particolarità è che tutto ciò ovviamente avviene all'interno di quelle 9 stanze che usualmente noi utilizziamo per fare la psicoterapia, dove ovviamente per psicoterapia intendiamo proprio il rapporto con la realtà inconsciente, quelle immagini che diciamo, noi nel rapporto psicoterapeutico le trattiamo, le lavoriamo ai fini ovviamente di cura della malattia mentale. In questo caso invece si potrà entrare e usufruire di quelle immagini artistiche che saranno ovviamente a disposizione di tutti. E quindi immagine, arte e bellezza. Vediamo, è un esperimento, un vero e proprio esperimento. Sono le discipline artistiche coinvolte? Beh, sono tante, diciamo che le 9 stanze appunto fanno un po' riferimento alle 9 muse greche. Per cui si approcceranno un po' a queste 9 muse greche, a queste 9 arti, tutti gli artisti ovviamente coinvolti in questo progetto, ognuno a modo suo, ognuno con la propria artisticità e ognuno con il proprio processo creativo. Per cui non voglio ovviamente spoilerare quello che sarà, anche perché sarà una scoperta anche per noi, Federico, nel senso che noi saremo parte attiva, spettatori attivi nel momento in cui apriremo le porte a tutti gli altri, per cui vedremo come si approcceranno a queste arti, questi 28 artisti. È una scoperta nel vero senso della parola anche per noi, per cui non posso dirti molto nel dettaglio e forse non è neanche questo quello che insomma serve. Sicuramente saranno 28 persone che daranno il loro contributo rispetto alla loro fantasia, alla loro creatività, nel far entrare chiunque viene a vedere, quindi lo spettatore, in quel processo artistico, in quel processo legato alle immagini che non è spesso dato vederlo, insomma, noi vediamo un po' come dire il processo finito spesso, no? Per cui questa volta invece abbiamo proprio la possibilità di entrare nel vivo e di usufruire di quella creatività che facesse insomma un vero e proprio rapporto. Una cosa importante da dire è che la curatela di questo evento è stata affidata a Giorgio De Finis, che è appunto il direttore del Macro a Nilo e inventore del MAM. E quindi insomma per noi è veramente un onore averlo insomma, come sì, a capo di tutta questa organizzazione, di tutto questo evento, perché insomma, va a rappresentare veramente la professionalità e la qualità di tutti questi artisti e di tutto questo grande lavoro che stiamo tentando di realizzare al meglio. Quindi veramente un grazie a Giorgio, un grazie a tutti gli artisti. Come sarà questa 2 giorni? Che orari? L'organizzazione ovviamente è stata molto importante, dettagliata, abbiamo una progettazione molto forte, mettiamola così, un team di progettisti e dietro le quinte insomma c'è un lavoro veramente importante. Tra ci hanno attaccato progettista Maria Luisa Russo, è quella che insomma coordina tutto il progetto a livello logistico, e funzionerà in questo modo: le persone possono venire dalle 16 alle 22, prenotarsi in una fascia oraria. Il viaggio, chiamiamolo così, prevede un tempo di 20 minuti nei quali si accederà a queste stanze al buio attraverso una luce, una torcia, e ognuno appunto potrà venire nel proprio orario, per cui nel prenotarsi dovrà scegliere la fascia che più gli è consona. Dalle 16 alle 22, tra l'altro, abbiamo uno sponsor tecnico che è l'Eleven, che è questo artista appunto Giuseppe Solfritti, che si occuperà dal caffè alla cena e ha portato a questo evento proprio anche lui con la propria artisticità, e quindi farà delle proprie, anche lui farà proprio delle creazioni in vivo, quindi anche la parte per quanto riguarda appunto il post tecnico lui stesso sarà insomma parte del processo creativo, sia il primo che il 2 giugno, tutti e due giorni. I riferimenti web? Per chi ha da prenotare, il numero da chiamare è lo 06 88 81 7633, oppure si può mandare una mail a progetti@psicoterapiamedica.org. In più abbiamo fatto per questo evento una pagina Instagram che è il COP Art Festival, per cui se qualcuno ci vuole seguire anche su Instagram ben venga, insomma ci fa piacere. Allora, ricordiamo la prima edizione del COP Art Festival a Roma, la cooperativa sociale di psicoterapia medica, il 1° e 2 giugno 2019. Un saluto e un ringraziamento a Piera Galeandro, una delle curatrici. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a te, Federico, buona giornata. Ciao.